Ed eccomi qua anche oggi, mercoledì 22 maggio, 15:14, rigorosamente in diretta su CRM all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia fino alle 17. Avete visto che caldo che c'è oggi? Cioè il tempo è impazzito, c'è uno scirocco, un caldo, mamma mia, proprio da andare al mare. Cioè proprio da andarsi a fare un bel tuffo, rinfrescarsi un po', perché proprio si sta squagliando, come si suol dire. Allora io vi ricordo subito i numeri, intanto per le vostre dediche, le vostre richieste, o anche perché no, per farmi un semplice saluto. Per i vostri sms il 335-56-37251, e ancora vi ricordo che potete seguirmi in diretta streaming dal nostro sito, che è il www.crmepiradio.it, da dove fare le vostre richieste, e ancora lo 0921-92-3292. E ancora la nostra pagina Facebook. Beh, se non siete ancora tra i nostri contatti, semplicissimo, andate su Facebook, scrivete CRMP Radio e poi cliccate mi piace, così anche voi entrerete a far parte della nostra grande famiglia, dove potete andare a curiosare un po' tra i nostri post, potete anche mandarci un messaggio, insomma una dedica, fate voi. Allora, io ho ricordato tutto, quindi direi di partire. Sì, che dite? Cominciamo? E allora cominciamo, andiamo! When I hear the ocean calling and I feel my spirit falling, I remember old Sorrento, where I fell in love with you. Love and romance in the garden. Yes, it's the immigrants taking over. Mr. Worldwide, Flavio, Ariana, salute. Let's have some fun. When I hear the ocean calling. I've been around the globe, ripping and riding, dipping and diving, running and gunning, slipping and sliding. Go ahead, try him, he can't, he works too hard to deny. Take me to Sorrento, keep me alive. Sexy people all around the world, the night is young, let's have some fun. Sexy people all around the world, the night is young, let's have some fun. I eat them, global dominance, known through all seven continents. I flirt with the earth, she loves when I whisper in her ear and pull up her skirts. What a dirty girl. Take me to Sorrento, kiss me. Sexy people all around the world, the night is young, let's have some fun. Su CRM di Radio, semplicemente insieme con Geraldina Turdo. la tua mente immagina, se la tua casa è un albero di gomma, piuma e canapa. Senti l'aria del mattino che sa di incenso e di primula. Ti rivedi in quel bambino che rincorre una libellula, alzando le sue braccia verso il cielo come simbolo di libertà, del diritto naturale che ogni uomo ha. Proprio di Laura Pausini, neo mamma di Paola, rompe il silenzio con una lunga lettera per condividere la sua gioia con tutte le mamme, ma anche per dare un messaggio di speranza a chi mamma purtroppo non può diventare. La cantante annuncia la sua presenza a Londra il 1 giugno con Beyoncé per l'evento benefico Chime for Change e poi naturalmente il lancio a Natale del Best of. Nessuna esperienza al mondo dice uguale alla maternità. Quindi donne, non esitate, nonostante le paure, a dare alla luce una nuova vita. E ancora continua Laura, ho letto molte email di ragazze che cercano la gravidanza e che incontrano grandi difficoltà. Il mio pensiero va appunto soprattutto a loro. Siamo donne comunque, sempre, e nonostante essere madre sia un'esperienza incredibile, essere donne e vivere in questa vita è altrettanto meraviglioso. Beh, certamente. In passato, ancora continua, anche io ho pensato di non poter avere figli e quindi so cosa significhi soffrire per questo. Beh, la prima apparizione adesso poi naturalmente è diventata mamma di questa bellissima bambina, quindi ancora tanti cari auguri alla nostra Laura nazionale. La prima apparizione quindi per lei sarà il 1 giugno assieme alla grande, un'altra grande straordinaria Beyoncé, appunto sul palco di Chime for Change, un evento straordinario. Insieme a lei naturalmente ci saranno Jennifer Lopez, John Legend, Florence and the Machine, e appunto vogliono dare voce e sensibilizzare il mondo su quella parte dell'universo delle donne ancora incredibilmente arretrato su molti aspetti. E infine in arrivo un progetto speciale per il ventennale della sua carriera. Riparte da un disco che racconterà insomma un po' tutta la sua storia in musica e porterà il suo greatest hits in giro per il mondo, e naturalmente la sua piccola Paola sarà sempre insieme a lei, dice, questo è sicuro. Bene, grande Laura Pausini, che tornata alla grande, tornata in forma, e poi diventare mamma appunto è una cosa straordinaria un po' per tutte le donne, un evento che ti cambia assolutissimamente la vita, la gioia, una gioia infinita. e noi continuiamo ancora sempre con la bella musica. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me, tell me, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you, you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of travolto il Mediolanum Forum di Assago, pieno all'inverosimile, con migliaia di fan fuori dal palazzetto, corsi addirittura anche senza biglietto. Gli One Direction hanno offerto uno show semplice, ma con tanto carisma, ingrediente principale del loro successo mondiale. Inoltre il 5 settembre esce il film sulla loro vita in 3D, This Is Us. E ancora nel 2014 poi ci sarà un tour negli stadi e un album ancora più maturo. Così giovanissimi, eppure hanno venduto 12 milioni di album in tutto il mondo e ha oltre 1,5 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Quindi devo dire alla grande, giovani eppure così tanto famosi, già spopolano dappertutto. Poi comunque sono bravi, quindi in bocca al lupo, continuate così, i vostri fan saranno contentissimi. E ancora saluto Peppe, buon pomeriggio Peppe, mi raccomando, c'è caldo, hai già visto? Proprio da andare a mare, proprio mi sa che mi andrei a fare proprio un bagnetto al mare oggi, proprio si sta sudando in studio qua, io sto squagliando. Vabbè dai, fa nulla. Non chiamo mai, ti cerco solo quando poi ho voglia di assaggiarti e di confonderti, me l'hai insegnato tu. E quando scappi e sei distante, ti cercano sempre. Il gioco lo comandi tu, ti chiamo stupida, ti prendo pure l'anima. E non sai mai quando ritorno, forse sì. È quel mio essere un po' bastardo che, se ci penso, è quello che ti piace di me. Spogliati senza dolcezza e senza regole, e poi giurami che tu sei pazza di me.

insieme a me, insieme a Jerry, lo ricordo naturalmente perché si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, fino alle 17 a tenervi compagnia sempre con tanta buona musica, gossip, notizie, curiosità e tanto altro. Adesso continuiamo con la bella musica, arriva lui, il grande Vasco Rossi, e su questa canzone saluto Federico, ciao! Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Giorno arriverà. E ancora una volta saluto Federico che ce l'ha richiesta dal nostro sito, che vi ricordo è il www.crmhappyradio.it. E a proposito del grande Vasco, beh, è pronto per partire per il suo tour per gli stadi di Torino e di Bologna, a partire appunto dal 9 giugno sino al 26. Dopo un lungo e forzato stop, il progetto Livecom 013 nasce dalla volontà di concludere il tour 2011 interrotto per cause di forza maggiori, maggiore appunto per problemi di salute, e le due città Torino e Bologna sono entrambe saltate all'epoca. Quindi si sta allenando, si sta preparando, infatti su Facebook si mostra in perfetta forma fisica durante gli odiati quanto faticosi allenamenti a cui da anni si sottopone prima di affrontare un tour. Inoltre il grande Vasco dice: la scaletta si svilupperà diversamente, dando spazio a brani che trattano temi sociali decisamente molto attuali, e ancora aggiunge: un concerto rock più duro per i tempi duri che corrono, e quando il gioco si fa duro, beh, duro, i duri cominciano a ballare. giusto? Non fa una piega. Grande Vasco, bravo, bravo, bravo. È tornato in perfetta forma fisica, quindi adesso continuerà alla grande, come naturalmente solo lui sa fare. Lui non molla, è bravo, non mollate mai, ma nessuno deve mollare, eh? Denti stretti e si va avanti. La vita è bella comunque, eh? Mi raccomando. E noi continuiamo. Siete sempre insieme a me, insieme a Jerry, con questo caldo che mi fa compagnia. Anzi, se passate da queste parti, non so, un gelatino? Sì, lo accetto volentieri, grazie. Well, all the parties on the streets are talking, store from mannequins sleeping in lights. We used to smoke while we were jaywalking, like it was your birthday every other Saturday night. Knew the band, so we never paid our cover. Wrote our names on the bathroom tiles. We never dressed to impress all the others. They would let us in on a laid-back kind of style. But boy, you know it's been a while. And I don't know why it all take me downtown, like you got anywhere better to be. Talk it up and give me the go round round, like a good time tease. I'm only counting on your cancellation, when I should be counting on you at my door. Did you forget about how we ran around? I don't know why it all take me downtown anymore. Sitting in the corner, they wanna stroll on a city sidewalk. I got a dress that'll show a little uh-uh, but you ain't getting uh-uh if you don't come pick me up. Show me off. You might be tired, but I'm not. And I don't know why you don't take me downtown, like you got anywhere better to be. Talk it up and give me the go round round, like a good time tease. I'm only counting on your cancellation, when I should be counting on you at my door. Did you forget about how we went around? I don't know why you don't take me downtown anymore. When I should be counting on you at my door. Did you forget about how we ran around? I don't know why you don't take me downtown anymore. Semplicemente insieme su CRM Happy Radio. Woohoo! Ti ho incontrata ma tu non mi hai visto. Per in macchina è stato un attimo. Ma il mio cuore si è come bloccato, o era fermo prima e ha ripreso a battere. Tante volte io l'ho immaginato, rivedere te che effetto mi farà, però adesso che è capitato, non importa più se sia stata colpa tua o mia. Eravamo quel che tutti sognano, quell'amore che i cantanti cantano, tanto forte, potente, immenso, che sembra esagerato ed impossibile, con il petto che sembra esplodere.

Viaggeremo con cornetti e cappuccino. E quando stanchi dormiremo sulla sabbia, le nostre camere scolpite nella nebbia. Ma dormiremo poche ore quanto basta, per poi svegliarci e rituffarci nella vasca. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi riduffo, mi rigiro, mi rilasso. Mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. Il giorno in una vasca, con le mie cose più tranquille nella testa, un piede fuori come fosse una bandiera, uscire solo quando fuori è primavera, ma spero solo questa mia fantasia non sia soltanto un altro attacco di utopia, perché per questo non c'è ancora medicina che mi trasformi la mia vasca in piscina, e tantomeno trasformare tutto in mare, però qualcuno lo dovrebbe inventare. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi riduffo, mi rigiro e mi rilasso. Mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi riduffo, mi rigiro e mi rilasso. Mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. Già, già, ci voleva proprio un bagno con questo caldo, sì, ci sta tutto, ci sta tutto. E ora parliamo di telefonini, sì, di smartphone, mai senza telefonino. Da tempo diciamo che il cellulare abita nelle borsette femminili o nelle tasche delle ragazze. In questi ultimi tempi ha cambiato e sta continuando a modificare le abitudini quotidiane di larga parte della popolazione femminile. Per 9 donne su 10 lo smartphone è un oggetto di uso quotidiano da impiegare sempre e dovunque. Il fatto di essere sempre connesse in molti casi semplifica la vita, anche se non manca però qualche ricaduta negativa legata soprattutto al senso di ansia. La stragrande quindi maggioranza delle intervistate in un sondaggio, appunto per la precisione l'87%, utilizza quotidianamente lo smartphone e il 97% se ne serve ovunque e in ogni occasione. Il 73% invece delle donne intervistate possiede uno smartphone e tra queste l'11% ne possiede più di uno, e di solito uno personale e uno invece lo utilizza solo per lavoro. Diciamo che l'uso crescente della tecnologia può arrivare anche a creare dipendenze. Infatti l'81% delle donne intervistate ammette di essere colpita. Il 14% non riesce a stare lontano dal telefono per più di un'ora, mentre il 18% si ferma mezz'ora e si ferma mezz'ora solo. Poi c'è infine un 9% che non può fare a meno di controllare praticamente ogni 5 minuti. Per fortuna però ci sono ancora situazioni in cui il telefonino viene allontanato, per esempio il 52% lo bandisce durante un appuntamento, direi, il 65% durante un incontro professionale. Ma a fare da contraltare c'è anche un 17% che non se ne separa neppure durante un incontro amoroso. Aia, è diventata una vera e propria dipendenza. Lo smartphone comunque è anche lo strumento principale per comunicare e coltivare relazioni sociali. Infatti il 97% delle intervistate lo utilizza in ogni luogo per comunicare con le persone a cui tiene di più, e lo si usa non solo per telefonare e mandare sms, ma anche per navigare, fare foto e video e consultare l'email. In media lo usa così l'80% delle intervistate, mentre il tablet è invece il mezzo preferito dal 58% delle donne che invece vogliono fare shopping online o leggere un libro o un giornale online. Lo smartphone batte quindi il tablet anche come agenda per il 95% delle preferenze. Non è tuttavia da trascurare il fattore stress che giustamente questo mezzo può generare, un problema che affligge il 32% delle donne che lo utilizzano. Mamma mia, proprio stressate dal telefonino, dallo smartphone, sempre lì pronte, attaccate. Sì, va bene la tecnologia, ok,

con voi su questa canzone del Coldplay. Beh, saluto Simona che ce l'ha richiesta ancora, vi ricordo, dal nostro sito che è il www.crmhappyradio.it. Ancora per i vostri sms il 335-56-37251 e ancora lo 0921-92-32-92 e la nostra pagina Facebook. Avete capito? Bene, bene, adesso parliamo di... Sì, camere da letto e i colori, diciamo, che sono più adatti e quelli da evitare. Beh, il blu è alleato per esempio di sonni tranquilli, invece il color caramello si accompagna a notti di intensa passione amorosa, mentre il grigio induce allo shopping notturno. Insomma, la camera da letto incontra i colori e ciascuno ha un suo peso, naturalmente un suo significato. Questo lo sostiene uno studio britannico realizzato appunto da una catena alberghiera. In base al risultato del sondaggio è emerso che il blu punto è la tonalità che, utilizzato come nuance base della camera da letto, è il miglior alleato del riposo, di un lungo sonno tranquillo e di un risveglio sereno e positivo. Il colore blu è infatti associato alla calma, aiuta a moderare la frequenza del battito cardiaco e aiuta a mantenere bassa la pressione sanguigna, un buon effetto sul relax e quindi sul buon dormire. Viene anche però dal verde e dal giallo. Chi ha la stanza da letto dipinta di questi colori ha dichiarato di dormire in media 7 ore e 40 minuti. Meglio evitare invece il viola per il suo influsso sul cervello. Chi ha la stanza di questo colore dorme meno, in media 6 ore per notte. No anche quindi al grigio e al marrone, accusati di dare origine a sensazioni negative di tipo depressivo. Diciamo che il colore di cui dipingiamo le pareti della nostra camera sembrano anche poi influenzare, oltre alla qualità quindi del riposo, anche le altre attività che di solito svolgiamo nella stanza, a cominciare dagli incontri amorose. In effetti le coppie che dormono e si amano in stanze di color caramello, ad esempio, hanno un'attività sessuale più intensa della media. A sorpresa il rosso non sembra così amico della passione come la sua fama vorrebbe. Le camere di questo colore vedono attività amorose ridotte. Infine, chi ha quindi le pareti dipinte nei diversi toni del grigio fa shopping online notturno con più frequenza della media, mentre le tonalità dell'argento si associano spesso all'esercizio fisico e sportivo. Voi invece di che colore avete la vostra camera? Gli esperti ci consigliano quindi di imbiancarla di blu, perché appunto è il colore di sonni tranquilli, il colore della calma, del relax. Invece voi, che colore? Anche il verde e il giallo però sono positivi sul sonno, sulla tranquillità, eccetera. Fatemi sapere invece di che colore è la vostra camera. Su, fatemelo sapere, attendo con ansia, sono curiosa, molto curiosa. Già so che stai chiamando tu. Lo squillo è ruvido, mi assale il panico e vorrei dirtelo. Il problema è che per quanto voglia non so scegliere se stare zitta o far qualcosa che sa di sconfitta. So che mi nasconderò tra frasi lette male, mi difenderò con l'indice puntato. È un'unica certezza, non c'è più tempo ormai tra un credo, un forse, un ma e la voglia di capire che lo so. Un'altra volta sono triste perché sola e

take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know. E su questa canzone saluto Chiara, che ce l'ha richiesta sempre dal nostro sito, che vi ricorda il www.crmhappyradio.it. E noi continuiamo con la bella musica, ancora un'altra mezz'oretta da trascorrere insieme a me. Nella mia mano c'è una linea dritta verso il sud, che divide in due il mio palmo. Un sentiero luminoso che racconta di me. E in mezzo ci sei anche tu. La la la la la la. Sembra per caso che a metà ci sia un'interruzione, come un grande avvenimento che divide la memoria. Arriverà l'amore e scriverò una canzone. Arriverà qualcuno a cambiare la mia direzione. Chissà se hai vinto tu, e come niente sei riuscito ad ingannare il mio destino. Con nonchalance mi hai derubata del mio futuro immaginario, e siamo qua, la la la la la la, e siamo qua, la la. Mia mano c'è una linea messa in verticale, con un albero maestro che ti indica il percorso, e arriverà l'amore, l'amore, la più fertile delle stagioni. Arriverà qualcuno a cambiare le mie impostazioni. Chissà se hai vinto tu, e come niente sei riuscito ad ingannare il mio destino. Con nonchalance mi hai derubata del mio futuro improvvisato. Un pomeriggio sei arrivato e siamo qua, la la la la la la, e siamo qua, la la la la la la. C'è scritto nella mia mano, la la la la la la, che siamo qua, la la la la la la. E già sei ancora tu, che prepotente. Ora dormi abbracciato al mio cuscino, con nonchalance mi stai vicino. E il mio futuro immaginario prevede un grande anniversario, e siamo qua, la la la la la la, e siamo qua, la la la la la la. C'è scritto nella mia mano, che sei entrato nel mio destino, la la. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care. Choices, I've only got a few. connection. That's right. 'Cause girl, I'm not letting go. I'm gonna make you feel right. Al 335-56-37251 e ancora vi ricordo lo 0921-92-32-92, il nostro sito che ormai penso sappiate a memoria e la nostra pagina Facebook. Che cosa ti aspetti da noi? Chissà se ci pensi mai. Lo sai che anche il mare è più blu. Poi nasconde scogli, c'è da correre per rimanere dove siamo. Perfetta così, questa nostra stagione, di giorni insieme ad esplorare noi. È perfetta così, ma non c'è per amore. Di cure e paure, le tue paure. Che cosa ti manca di te? Da quando tu stai con me? Se un giorno tu me lo dirai, lo avrò già intuito. Da vivere per diventare quel che siamo. Perfetta così questa nostra stagione di vita insieme a innamorare noi. È perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Guarda in quanti corrono spingendo il freno e non riescono più a su questa meravigliosa canzone di Eros Ramazzotti. Beh, saluto Gaetano. Ciao Gaetano. Adesso parliamo di lavoro, no? Siamo un po' in crisi, il lavoro non ce n'è e c'è chi naturalmente se lo inventa. Beh, arriva una signora, una giovane donna che si è inventata appunto un lavoro. La coccolatrice professionista. Diciamo che lo sappiamo benissimo, le coccole fanno bene alla salute, riducono la pressione sanguigna, anche il livello di cortisolo, cosa che secondo studi medici rafforza il sistema immunitario e aumenta il livello di serotonina e ossitocina, facendo sentire più calmi e rilassati. Beh, Jackie Samuel ne ha fatto un vero e proprio business. La ragazza 29enne, madre di un bambino, ha lanciato un servizio in cui chi lo desidera viene abbracciato mentre dorme. Il servizio è molto chiaro sul fatto che non devono esserci comunque approcci di tipo sessuale e Jackie lavora solo nel suo appartamento di New York. Il successo del servizio, che costa $60 l'ora, è stato enorme, tanto che ha dovuto trovare una socia che ogni tanto l'aiuta quando le richieste sono molte. L'idea, diciamo che ha avuto molti apprezzamenti, un po' a diversi clienti, insomma, da veterani di guerra, uomini che stanno divorziando e cercano di ritrovare un po' di serenità, a chi invece si sente semplicemente solo. Ma è arrivata anche qualche critica, perché l'università dove studia la ragazza ha minacciato di espellerla. E Jackie racconta che qualcuno che non ha provato il servizio, va detto, l'ha definita ancora peggio di una prostituta, perché le cocche sono qualcosa di ancora più intimo del sesso. Jackie sostiene che chi si sentisse disturbato dalla sua attività dovrebbe innanzitutto domandarsi perché è disturbato, dato che proprio il fatto che molta gente consideri il contatto fisico una cosa strana che sarebbe alla base di molti malesseri sociali. Inoltre la gente paga molto spesso per cose molto intime e lei dice: non parlo della prostituzione, ma di cose come la terapia e le cure alternative. Beh, lei si è inventata questo lavoro, diciamo che non fa male a nessuno e contenta lei, contenti tutti. Cioè, strano però trovarsi ad abbracciare uno sconosciuto, vabbò, cos'è che cambia? Lei è contenta così e ok, in bocca al lupo, che vada avanti insomma per la sua strada. No? Che ne dite? I've been around the world, I never find the right girl. You want to call my sugar, you want to call my lover. I mean the right one who can love me for who I am and love for what I got. Caruso Valentino, let's take this music to another level. Oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, come down now, ain't Mr. DJ, play myself, turn it up. MP Radio. Pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. I'm Per oggi all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia, vi rinnovo l'appuntamento insieme a me per venerdì, sempre a partire dalle 15 circa sino alle 17, sempre con tanta buona musica. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, buon programma a tutti quanti con CRMP Radio, buon proseguimento e noi ci vediamo venerdì, anzi ci sentiamo venerdì. Baci, alla prossima e fate i bravi! Semplicemente.